infanzia ci sei te, nell'odore delle pagine di un libro, tra le luci che entrano dalla finestra. In una pozza in grafo, una sigaretta, e ho la giacca aperta, il freddo entra. L'eco delle tue parole piove, quanto piove. Ho rinunciato per sempre a toccarti, ma in qualche modo so che ti arrivo ancora, ma mi manca la tua luce in questa stanza. Piove su Milano, piove tra l'eco delle tue parole, piove quanto piove. Piove su Milano, piove tra l'eco delle tue parole, piove quanto piove, è malinconica questa città, si sta meglio in due al buio, si sta meglio in due al buio, si sta meglio in due. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Elizabeth dal titolo Ruggine. Come si chiamava questa canzone? Questa canzone è Piove su Milano, che l'abbiamo sentita nella versione in italiano, che è l'unica canzone che come bonus track c'è alla fine del disco anche in inglese, perché è stata quella dello spot della Edison che ha seguito tutti gli eventi sportivi di quest'anno. Che in inglese è You Are My Light. Senti che pronuncia della Madonna. In the dark. Dopo l'uscita di Ruggine, quali impegni attendono la vostra band per il futuro prossimo? Fare concerti, perché se vogliamo fare musicisti bisogna suonare. Infatti. Questo è l'impegno principale, direi. Sì, sì, sì, direi che tra prove, concerti e... Poi io sto già scrivendo anche la roba nuova, perciò in automatico... In un futuro disco. Esatto. Stiamo già lavorando anche su quello, stiamo già lavorando un casino. E allora, quale canzone ora ascoltiamo? Beh, io andrei di Certi giorni. Anch'io. Andata. Che qualcuno ha un'idea, ma perché non riesce mai a realizzarla? Ma perché c'è sempre qualche cosa che non va? Ma perché la ruota non gira per il verso giusto? Ci vorrebbe una rivoluzione. Certi giorni sempre la vita come sfida. E c'è anche chi sta buono e zitto al proprio posto. Ma perché c'è chi ti prende in giro e chi non sa come confonderti? Ci vorrebbe una rivoluzione. Giorni, non capisco cosa sto facendo, certamente non sto lavorando per me. Certi giorni, non capisco che cosa mi prenda che non mi fa star bene. Certi giorni, non capisco cosa sto facendo, certamente non sto lavorando per me. Certi giorni, tempo scorre e noi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie agli Elisabeth per la partecipazione, buona fortuna per il disco e per il vostro album. A questo punto la parola a voi per contatti web ed email per info sul vostro, ovviamente, disco e un calendario di live. Beh, guarda, soprattutto noi utilizziamo MySpace e Facebook, che li utilizziamo direttamente noi, perciò chiunque può venirci e scrivere, dire qualunque cosa che parla direttamente con noi. E abbiamo facebook.com/elisabethband e myspace.com/elisabethdisinfettante. Su queste poi potete trovare anche il calendario con tutte le date, che ne abbiamo diverse. Adesso io sinceramente non me le ricordo tutte e comunque è in continuo aggiornamento. Però esatto, però ricordiamo mercoledì 1 dicembre alla casa 139 in via Ripamonti 139, guarda caso, Milano. Ah, beh, dove esatto, ci sarà esatto. La prima data, diciamo, ufficiale del tour degli Elisabeth. Sì, è una data a cui noi teniamo molto, perciò più parliamo solamente di questa adesso, anche se poi saremo anche al May, saremo ancora nelle nostre zone e in altri posti, tipo tra Torino, Firenze, Bologna e altri giorni a dicembre e gennaio. Però veniteci a trovare a Milano, che è molto bello. Ci teniamo tanto. Esatto. Altre cose, potete trovare anche il nostro canale su YouTube, che è Elis Band, dove potete vedere tutti i vari backstage, noi che facciamo gli asini costantemente con i nostri cellulari, ci riprendiamo a vicenda, però trovate anche i vari video ufficiali. Esatto, i più ufficiali. E più seri, ecco, insomma. Quindi... niente, noi vi ringraziamo allora per tutto quanto. E se ci comprate il disco, se non lo trovate, che è impossibile, potete comunque andare sul sito della Mescal. No, esatto, il disco è ovunque, perché è distribuito Universal, perciò persino ai Media World è ovunque. L'importante è, nel caso l'abbiano finito, come è già capitato, però nel caso l'abbiano finito basta riordinarlo e loro te lo fanno arrivare in tempi record. Oppure andate sul sito della Mescal, che tra l'altro in genere nel periodo natalizio fa sempre delle ottime proposte, nel senso che penso, se ben ricordo, tu con tipo 20 euro una roba del genere porti a casa 10 CD, tipo pacco Mamma di mia. Natale, tra Subsonic, After Hours, il nostro, cioè. Non regalate bottiglie e formaggi, ma regalate CD. Esatto, sosteniamo la musica indipendente. Brano per chiudere questa puntata? Beh, io direi di andare di opportunità, giusto per ringraziarti appunto dell'opportunità che ci hai dato. Ha un senso però. Certamente, allora Jean-Luc e gli Elisabeth vi salutano, noi ci risentiamo come sempre venerdì prossimo, ciao! che si apre va sempre valutata, non è detto che si apra due volte. Bisogna avere denti stretti e coraggio a non finire ogni lasciata è persa. Le opportunità vengono e vanno, c'è chi non ha neanche quelle. Le opportunità vengono e vanno, bisogna giocarsela tutta. Bisogna tuffarsi dentro ogni singola opportunità, non c'è più niente da perdere. Si rischia sempre di sedersi e adattarsi alla meglio o peggio, io preferisco provarci. Le opportunità vengono e vanno, c'è chi non ha neanche quelle. Le opportunità vengono e vanno, bisogna giocarsela tutta, bisogna mettercela tutta, darcene finché ce n'è, puoi dire almeno d'averci provato, posso dire almeno io ci ho provato.